che è avanti. Avanti sul 10. Nulla, qua frusciano e non parlano. Ora, 1 e 3, prova a provare. Attenzione, binario 10, Kappa. Attenzione, 10, Kappa. Ora, ora, ora. 1, 2, 3, 1 e 3. Chi è avanti? 1, 2, 3. Attenzione, 10, Kappa. Basta, non parlo, ma sto facendo delle prove. Basta, tutto è spiegato. pochi e boh, non ci comportiamo come si deve, ma si potrebbe stare tranquilli a fare discorsi tranquilli. Io tutte le sere accendo, Giulio, io tutte le sere accendo, anche perché scaldo tutti gli apparecchi. Quando tu hai risposto a quello lì, io ti ho sentito e ho spento tutti gli apparecchi, ho dovuto avere il momento per spegnere tutti gli apparecchi, se lo fischia e innesca la radio, capito? E allora ho spento prima quattro apparecchi e poi ho risposto a te. Sì, beh, il discorso è sempre questo, no? Non hai voglia di parlare, nessuno ti obbliga, per carità, chi è che ti obbliga? Io non è che devo entrare nella mente della gente, però se non altro, se ti dico avanti, se non altro, ciao, crepa, dimmi quello che ti pare, ti piace, ma almeno mi hai risposto. Questa è una questione di educazione, poi chi non risponde per me è un vero e proprio miserabile, nel vero senso della parola, sia mentale che come uomo. Ci sono quelli che fischiano, quelli che pensano la portata, non ti rispondono, sentono le break e loro fischiano, però tanto non ti rispondono. Appunto, lo so, ma dico quello, è quello che sto dicendo. Se tu fischi e ti dico avanti e non rispondi, cosa ti costa dire? Se no, sto solo provando così perché ho problemi o perché non ne ho voglia, la verità, sto giocando, ecco, sto facendo una scusa la più banale di questo mondo anche, ma se non altro ti sei fatto sentire, ti sei dimostrato educato, che hai risposto, invece ti dimostri che sei semplicemente un miserabile se non rispondi. Entrerà qualcuno migliore. Ma per carità, è una vergogna, ma ieri ho parlato per un po' di tempo, una mezz'oretta, forse qualcosa di più anche con Daniele, mi ha detto che si è trasferito di casa, non abita più a Sassari. Sì, me l'ha detto che era con te, sì, lo so, giù abita, mi pare, in un paese, a Itili, mi pare, o a Udine, forse, no, Itili forse, vabbè, comunque me l'ha detto, ma non mi ricordo esattamente dove sia, però si è ripiazzato tutto, ha detto che l'antenna è bassa, che adesso la dovrà alzare, che posticamente l'ha messa a bassa. Sì, me l'ha detto, sì, infatti è Itili, sì, anche perché ieri c'era molto QRM, per cui arrivava la sua modulazione, mi arrivava completamente, quasi del tutto coperta dal QRM, perché c'era Santiago 8 di corso, e lui addirittura aveva Santiago 9 di QRM, ti puoi immaginare, cioè che è stata una conversazione un pochino così, anche se bene o male ci siamo capiti quello che abbiamo detto, però era, diciamo che era un momento di difficoltà, ecco, per questioni atmosferiche, dai. No, io l'ho sentito un po' bassino il primo giorno, poi ieri l'ho sentito molto meglio col K usciva bene, dai. Poi c'è anche l'aiutino, quindi già si arrancia, già esce, sono riuscito a sentire lo Santiago Robo. Sì, anche da me arrivava più o meno quel segnale lì, 8.5-9, ma c'era QRM8, sì che si può immaginare, fra 8 e 9 non è che ci sia poi tanta differenza, per cui si trascinava presso tutto il QRM completo, proprio nel vero senso della parola. Sì, sentivo quello che diceva, però c'era proprio tutto il QRM, come se la sua portante non ci fosse, in poche parole. Era disturbato, dai. Ho capito, ma l'altro giorno arrivava con la radio di 2, poi come ha messo il K era tutta la fragosa, ha provato il baracchino ma arrivava a 2 come era. Sì, no, ma stavo usando il K, ieri stavo usando K, però ripeto, c'era molto, ma molto QRM in ricezione, ieri era tremenda, guarda, forse perché stava piovendo al nord e dappertutto in Italia, insomma un po' dappertutto, per cui allora era quello il momento difficile. Che piove, non so, c'è stato anche un terremoto ieri, per carità, nella zona di Rimini, Riccione, quella zona lì, c'è stato un terremoto. Certo, tutti gli anni questo accidente del terremoto si fa anche sentire, ma anche nel napoletano, in questi giorni passati ci sono state alcune scosse, fortunatamente non ha fatto danno, per fortuna, ma speriamo che queste cose non ne succedano mai, perché sono cose veramente tremende, e quando succedono forti scosse, la gente già lo sai, difficilmente riesce a salvarsi. Erano tutti fuori di casa lì nel napoletano, stavo seguendo la live io, erano tutti fuori di casa perché avevano paura di entrare, quella gente, guarda, cioè, se li prendono li spavito. Sì, infatti, mi ero per allontanato per chiudere la porta, perché per non disturbare giù, comunque mi sento magari, perché c'è mia figlia che sta lavorando al computer, per cui non volevo disturbare, allora ho abbassato la porta. Sì, ma è così già, e purtroppo questo clima è bello a tante volte, ma tante altre volte è micidiale, e lo vediamo tutti gli anni che sta facendo, tutti gli anni, e questo vale sia per l'estate che per l'inverno. Sì. Purtroppo l'uomo ha fatto il danno e la natura si sta ribellando. Allagamenti, ma prima non si incendia così si cose, Sì, infatti, allagamenti. Ma adesso l'hai visto quei tre ragazzi, poveracci giovani, due ragazzi e un ragazzo, credo che quel ragazzo ancora non l'abbia nemmeno trovato. L'ha portato via la piena del fiume, l'ha trascinato via tutti e tre e sono morti. Due ragazze sono state trovate, il ragazzo ancora, perlomeno ho perso io l'informazione, ma non credo, perché io l'informazione l'ascolto tutti i santissimi giorni, quel ragazzo ancora, mi sa che ancora non l'hanno trovato. Sì, si sono abbracciati cercando di vincere la furia delle acque, però non ce l'hanno fatta, li ha trascinati tutti e tre lo stesso. Purtroppo è così, vabbè, sono momenti terribili quelli, soprattutto quando succedono a certe persone così giovani, gente di 20 anni più o meno. Vabbè, c'è stata anche un'influenza da parte di loro, che si sono lì fermati, o meglio incuriositi a vedere cosa stava succedendo, ma forse essendo giovani non hanno capito che c'era molto pericolo, e beh, infatti il pericolo poi si è verificato abbastanza grave. Lui si avrebbe voluto subito una corda lanciata e tirati su, ma bisognerebbe, ci fosse, come c'è per dire a Portoferro, c'è una corda in riva lunga con lo salvagente, perché a Portoferro sai cosa succede? Praticamente il mare è calmo, poi di colpo gira e comincia il mare a diventare mosso e ti porta verso il largo, capito? Quindi cosa succede? Quando vedo qualcuno in difficoltà di tirare le salvagente dalla riva, c'è un coso lungo, una corda lunga e abbiamo salvato un bel, una volta c'era anch'io e abbiamo fatto il cordone umano, praticamente fino a un certo punto siamo arrivati dandoci la mano uno con l'altro per arrivare a lanciargli questo coso, l'abbiamo salvato questo surfista e lui ha detto che lo stava allegando, aveva alzato la mano 2 o 3 volte in mezzo alle onde, c'aveva una tavola da surf, era un tedesco, una tavola da surf e stava annegando, e poi quando è arrivato lì che l'abbiamo salvato, cazzo, ci ha detto che lo stava annegando, era un barco di una giusta. Purtroppo sono momenti terribili per chi li vive o per chi li subisce, purtroppo è così già, ma speriamo che non succedano mai più certe cose, però mi sa che la vita è destinata anche a questi incidenti, purtroppo è così, e cosa ci vuoi fare? È bello questo, che l'uomo più delle volte non ci può fare niente, dico l'uomo, per dire l'uomo, l'umanità, dai, in certi casi non ci può fare molto, ma tu mi dirai sì, l'uomo adesso è stato un pochino scorretto con la natura, eccetera, tutto quello che vuoi, sono d'accordo al 100%, ma tu pensi che quando la natura si ribella ci sia la forza dell'uomo che possa evitare il dramma? No, assolutamente no. Può essere più pesante o più leggero il problema, però il problema forza che è invincibile, la forza della natura non la vince nessuno. Infatti non la vince nessuno, no, purtroppo è così. Anche quell'altra, quella ragazza, lo stesso giovane investita, ragazza, da questo yacht, il mare, così, eppure il mare è grande, c'è il posto per poter navigare, per potersi divertire, e gli è passata sopra, ragazzi, ha ammazzato questa donna. Adesso addirittura stanno dubitando del fidanzato, dice: ma come mai è morta lei e tu no, e tu sei vivo, non hai avuto niente, nemmeno una piccola ammaccatura. Stanno addirittura pensando che c'è invece lui che abbia buttato la donna in mare e l'abbia ammazzata lui. Tu pensa a cosa si arriva, cioè, tante volte, eh? Per carità. E vabbè, adesso con tutte le cose che si sentono giù non c'è da meravigliarsi più di niente. Ah sì, oggi non c'è da meravigliarsi più di niente, per carità, no, una vergogna, non è possibile, non è possibile già. C'è da rimpiangere i tempi passati di quando io ero giovane, c'è da rimpiangere di oggi, nonostante che oggi dove c'è più benessere, tutto quello che vuoi, c'è più vita, tutto quello che vuoi, ma a livello di incidenti e soprattutto di malvagità della persona stessa, dell'uomo in generale, c'è da rimpiangere quegli anni lì, che parlo di 50 anni fa. Prima c'era più povertà, ma c'era più sensibilità nei confronti degli altri, più rispetto, più tutto. Non c'erano tanti soldi, però almeno si andava avanti e si rispettava uno con l'altro. Adesso non c'è più rispetto. Adesso quello lì ha ammazzato la ragazza incinta, ha ammazzato dei bastoni in panica. Ma il bello è questo, cioè, guarda la crudeltà delle persone, alle volte vanno e ammazzano o la moglie o la fidanzata o una madre o un padre, ma cose vergognose, cose assurde veramente. Vuoi dire, beh, l'hai ammazzata, l'hai dato una coltellata, l'hai ammazzata, no, l'ha ammazzato con 30, 40 coltellate, ma è proprio un'aggressività inaudita, non è possibile che nemmeno un selvaggio riuscirebbe a capire certe cose, eppure queste cose le fanno. Sto parlando addirittura di fra familiari, addirittura già. Le persone si può fidare di meno dei pariti che delle altre persone esterne, perché tante volte sono proprio i pariti che fanno le cose che violentano i bambini di famiglia, eccetera, che violentano le donne, insomma. Si interessa di tutti i gruppi. Io ho iniziato su internet e guardo anche i seguimenti di polizia, carabinieri, a me piacciono queste cose qua, quando arrestano la gente, eccetera. Ma li vedi tutti i gruppi, ci sono dei posti dove non ci puoi neanche entrare perché ci aggrediscono, anche i carabinieri aggrediscono. Sì, è vero, anche i carabinieri, i poliziotti vengono malmenati da certi delinquenti, cose inaudite veramente, guarda, non si può assolutamente sopportare e accettare una situazione oggigiorno così come è messa, non è possibile, guarda, veramente. Tu pensa che, ad esempio, in quest'anno oltre 200 poliziotti, dico poliziotti per dire militari, dai, dell'arma, che poi se sono tutti poliziotti, questo non lo so, ma oltre 200 poliziotti sono dovuti ricorrere alle cure in ospedale perché i manifestanti, ragazzi, nelle manifestazioni da imbecilli che ha torto o ha ragione, hanno ferito chi a noi ci difende, quelli che a noi ci stanno facendo un favore, stanno mettendo a repentaglio la loro vita per uno stipendio da misero stipendio, insomma, da morte di fame, quasi, tra virgolette. E poi non possono usare armi, non possono più usare nulla. Il mio socio diceva sempre questo: cosa ce l'abbiamo l'arma noi? Non possiamo manco chiuderla, almeno che ci sparino loro prima, poi devi aspettare che magari sparano e magari ti ammazzano per usarla, capito? È un casino. Prima io mi ricordo che il manganello lo usavano la polizia nelle manifestazioni, li usavano i manganelli, è come se li usavano, adesso non lo usavano manco qui. No, non lo usano, non glielo permettono, guai, caspita, già è cosa, sì. E non si può azzardare a fare una cosa del genere. Eppure loro subiscono, caspita, per difendere a noi cittadini stesso, vanno a rischiare la vita. No, non è possibile, già. Non è accettabile una cosa del genere. Io gli avrei dato libertà di difesa, ma come si deve, ma li avrei addirittura armati, perché la delinquenza si combatte solo con i sistemi adeguati a quelli che usano i delinquenti stessi. Se tu prendi uno schiaffo e ti giri dall'altra parte per prendere l'altro schiaffo, non va bene. Se tu mi hai dato lo schiaffo, io ti do una martellata in testa. Dovrebbero fare così. Tu mi dirai, ma tu vuoi incitare la polizia alla violenza? No, la polizia a difesa dell'umanità e di loro stessi, soprattutto, che questi sono dei lavoratori, padri di famiglia, con figli, eccetera. Non possono rischiare la vita davanti a certi delinquenti. Guarda che io ho visto scene facendo servizio ambulanza, specialmente la volta della discesa di San Gabbino, che fanno la notte, noi li accompagnavamo con l'ambulanza, perché non era una manifestazione che praticamente la polizia aveva dato il permesso di fare. Quindi fuggevamo lui con i lampeggianti e i mesi nostri accompagnati sino a Porto Torres. E un giorno, una volta che siamo scesi, abbiamo messo l'ambulanza all'uscita della chiesa, perché sai benissimo cosa succede. Quando arrivano lì sono tutti accaldati, vanno nella chiesa, si accumulano tutti dentro la chiesa e cominciano a svenire uno dopo l'altro, ma ce ne portano anche 3-4 insieme dagli animali. E si sono messi a fianco a noi i carabinieri. A un certo punto questa arriva e butta la lattina davanti ai carabinieri, guardandosi come sfida. Il carabinieri ha detto, ma così con la lattina, e buttala nel secchio della mondezza. E così si è girato e ha detto, vai, servo dello Stato, carabinieri, diciamo a me la dirazzendo io il capo. Quello lì zitto, non diceva nulla. Io me lo guardavo e dicevo, cazzo, ma come possibile? La notte c'era anche Sgarbi con due belle ragazze, stava cercando tutti, eccetera. Ti parlo di anni fa e più non di adesso. Beh, fatto sta che il carabiniere si gira da me e fa, non possiamo intervenire perché c'è troppa gente, e se magari gli mettiamo le mani addosso ci vanno contro. E poi si sono guardati col collega, hanno resistito sino un po', e detto, se vuoi te le do io 1200 euro, cazzo, ma 1200 euro fai il servizio di notte, prendoli in giro. E questo carabiniere alla fine l'ha preso, lo stava caricando in macchina, e lui si divincolava, chiama l'avvocato, gli ho detto all'amico, chiama l'avvocato e chiama chi ci piace. Ha preso, l'ha caricato in macchina e l'hanno portato in caserma. Fatto sta che poi, quando è tornato il carabiniere, mi ha detto tutto, mi ha detto, quello lì, lo sai che quello lì ha fatto una rapina, e poi ha detto praticamente che se fossero stati da soli una bella susa gliel'avrebbero data, solo che c'era troppa gente perché c'era Sgarbi, eccetera, eccetera, quindi poi immaginare la festa di San Gabbino e c'era un sacco di gente. Però per dirti come si comportano, e loro devono stringere i denti, ma non so quanto hanno resistito. Io me li guardavo in casa e dicevo, ma come cazzo fate a resistere a tutte queste ingiurie che vi sta dicendo? E appunto, è quello che io non riesco a capire, ma per quale motivo uno deve essere preso così a parolacce, a sputi, a calci, in tutte le maniere, e non ti puoi difendere? Ma vuoi scherzare? Ma è una cosa da un vita, guarda, perché la legge non gli permette di offendere nessun cittadino, però il cittadino permettono al cittadino che offendano le forze dell'ordine. Questo non va bene nella maniera più assoluta. Io devo dire che deve essere il contrario, dovrebbe essere, cioè le forze dell'ordine devono avere l'opportunità di difendersi come si deve veramente, perché il delinquente merita di essere picchiato forte, merita, perché intanto il delinquente è nato, il delinquente morirà, quello, e non cambierà mai, perché uno che arriva a fare certe azioni, certi comportamenti nei confronti di chi difende le persone come si deve, come noi, eccetera, eccetera, non può essere né insultato, né sputtato, né offeso, a parolacce, a questo e a quest'altro. Ma vuoi scherzare? Tu stai offendendo un lavoratore innanzitutto, padre di famiglia, che ha tutto il diritto di prendersi e metterti le manette se è necessario farlo. Non puoi tu comportarti in questo modo ed escludere la possibilità al poliziotto di difendersi. Non si può escludere. Guarda, se lo escludono in Francia o in Spagna, che ti bussano il vetro, dico, ti facciano il numero della macchina, se non apri il trasportello subito, dico, di la giusta, lui. Ho visto certe cose su internet, di gente che l'hanno fermata, non voleva aprire lo sportello, hanno spaccato il vetro, e sono entrati dentro, l'hanno picchiato, va forte, bello. Perché meritano quello, meritano di essere picchiati fortissimo, come fanno in America, ti prendono in 4 in 5, ti buttano a terra e ti massacrano col manganello e in tutte le maniere, eppure hanno il coraggio di andare a denunciare anche i poliziotti, ma vuoi scherzare? Caspita, tu denunci le forze dell'ordine, quelli che stanno facendo il proprio dovere, sono quelli che devono mantenere l'ordine, invece no, non permettono al poliziotto di fare il proprio lavoro come si deve. Ma tutto è sbagliato dallo Stato, perché io non dico di avere abuso di potere, però se in casi necessari gli avrei dato carta bianca su certe cose, capito? La difesa, e poi li denunci e li puniscono pure, capito? Secondo che cosa fanno, li puniscono pure, non è che perché sono poliziotti che sono esenti da certe cose. Se una persona li arrestano, li fanno, ma te ne vai, ma grande vai, cazzi, cioè purtroppo siamo in Italia, quello che si è difeso, cavolo, che ha sparato i ladri, il ladro è andato a lamentarsi che non poteva manco fare il suo lavoro in pace, e gli hanno dato ragione, l'hanno denunciato al tipo. Sì, beh, guarda, è veramente, no, io non riesco a capire con quale criterio abbiano l'ordine di non difendersi e di non girarsi in certe situazioni. Caspita, non vuoi scherzare? Non so io, che anche un bambino si cerca di difendersi, magari anche se magari sappiamo benissimo che c'è contro certi delinquenti, non ce la può fare nessuno, però viene spontaneo, viene abbastanza naturale che uno cerchi la difesa. Caspita, è il poliziotto che è lì messo per lavorando, per difendere la gente, l'ordine pubblico, e tu invece non gli consenti di difendersi. No, tu lo stai penalizzando una persona che ha tutto il diritto di difendersi già come persona, poi deve avere un altro doppio diritto per difendersi come persona delle forze pubbliche, perché è quello il suo lavoro, invece non glielo consentono di fare certe cose. Ma non lo vedi manco le manette, li puoi mettere, se no è sequestro di persona, secondo come va. Oh, ciao, Natalia. Sì, lo so, ma guarda, è una cosa vergognosa, e per quello la delinquenza si sta diffondendo sempre di più anche tra i ragazzini, ormai oggi anche a 10 anni vanno a fare certe cose assurde, incredibili, fanno delle belle grandi, dice, ma sono dei ragazzini. Sì, ma i ragazzini se te ne vengono 10-15 tutti in una volta, altro che ragazzine, però diventano dei giganti, diventano tutti insieme. Purtroppo è così. Avanti Natalia ancora, c'è Gianni. Sì, ciao a tutti e due. E cosa vuoi? Hanno guastato tutto. Hanno guastato, gli hanno tolto tutti i poteri, non possono fare più nulla. Che verani come un peso la pistola e basta, non la possono più usare. Non è come prima che usavano manganelli, se serviva toglievano anche la pistola, li ho visti io con la pistola in mano. Però adesso non lo puoi più fare, se non puoi togliere la pistola da potere, devono spararti, perché questo avrà detto mio socio, se non ti sparano non ti puoi difendere. E infatti è così, hanno cominciato piano piano, gli hanno tolto tutti i poteri. A tala manco rimanete di voi buoni, se noi c'è questo di Bassona, se uno non è pericoloso non lo puoi ammanettare. Beh, io ho visto che anche Vigili Urbani l'ha ammanettato da poco, eppure anche i Vigili Urbani adesso ci hanno occupati di pulizia, ma non è che sia niente di che, perché tanto lo possiamo fare nulla lo stesso come i poliziotti. Cosa fanno? I delinquenti ne approfittano, li prendono in giro, li dicono tutti i colori, perché tanto non si possono girare la carica. A me mi sembra, io tante volte penso, ma quando questi delinquenti così che si girano alle forze dell'ordine, lo fanno apposta per farsi arrestare, per magari poter vivere grazie di un po' in galera, eccetera, eccetera. E invece poi cosa fanno? Le prendono, le portano questo, le interrogano e le lasciano a piede libero, magari anche se sono magari denunciate. Però intanto sono liberi, poi escono e fanno altrettanto, fanno anche peggio. Io adesso non mi ricordo, ma tempo fa era successo che un vigile urbano, sto parlando di Sassari, mi sembra che era, se ricordo bene, adesso non vorrei sbagliarmi, ma stavo contestando la contravvenzione a uno, questo si gira e gli dava la testata in faccia. Ma dico io, ma cosa da fare solo? Ma te ne rendi conto, che tu ti sei girato ad una persona che sta facendo il suo lavoro con tanto di sacrificio, perché anche quello è un sacrificio, venire a affrontarti in una certa maniera. No, non è possibile, guarda, io gli avrei dato casa libera, se vi offendo difendetevi, e poi così poi si vedranno le cose. Vai Natalia. Infatti, se mi avevano incontrato una zumbata, io l'avevo un gatto migliato e l'avevo fatto a pezzi. Come ti ha fatto Murni, il vigile urbano, te lo ricordi quel vigile urbano grosso? Di questi particolari ne sono successi, tanti ne sono successi. E il fatto è questo, che poi passano molte qualche donna a loro anche, perché a loro li riprendono, tante cose sono, insomma, in poche parole loro fanno il proprio lavoro e non lo possono svolgere come si deve. Perché? Perché vanno lì per rischiare la vita davanti a certe persone, a certi delinquenti, perché io quelli non li chiamo nemmeno persone, io quelli li chiamo delinquenti e basta, vai già. E c'era stato anche uno dei vigili in via Umberto che aveva manettato uno al palo, e tutti che si ribassava e lui era attaccato a rubare. Ha fatto bene, cos'è questa cosa? Vuol dire che aveva il diritto di fare queste cose qua, perché già lo sai che sono prepotenti. Poi se tu ritieni di avere ragione, perché ti sto contestando una contravvenzione o una qualsiasi cosa, poi ci vedremo nella sede opportuna, ma tu a me non mi puoi contraddire, perché io sto facendo il mio lavoro. E poi se tu ritieni così, fai la denuncia e ci vedremo dire in tribunale. Ecco qual è il discorso. Vai da te. Una volta che studia Croce Verde, abbia ci sei io, mo cava di nera gianchetta che si la vidimo tra noi. E chi tu ne macchine savio, se ne ha cavato la gianchetta, ti racconto una zuzza a coso. All'Uriga ha fatto nuovo. Di chi sono Monni? Monni si chiamava quel vigile, un vigile grosso, ragazzo, ma pure a solo che Andrea Luriga. Lui proprio lì andava a fare da poi, ma carità, ma dai, ti hanno distrutto un poco della regione, con tutti quanti questi macchini. Intanto la malità è arrestata solo, ma l'ho fatto che ha inquinato il suolo pubblico con tutte quelle macchine, che ancora credo che ci sia qualcosa lì, sotto il ponte del Rosello, che apparteneva a lui, magari adesso non appartiene più a lui, ma apparteneva a lui, macchine vecchie, pagate da noi o Gianni. Ma lui vivo è ancora. Non te lo so dire, io sono anni e anni che non l'ho più visto, però qualcosa so del passato. Capita, bisogna pochi lì, pigliavo un contributo per prendere i mezzi pubblici e così, e poi chissà che fine facevano. Ma era carì. Ma si rimagnava, sulla regione ne era pure 200-400 milioni di allora. Tu puoi immaginare, non so voi, una cosa incredibile, boh, vabbè, comunque. Oh yeah, vabbè dai, adesso a proposito di quello, mi ricordo che una volta quando c'era ancora la cosa, il negozio di palmieri lì in via Sorso, no? Dove c'era adesso la banca, adesso già da anni c'è la banca, no? Prima c'era palmieri lì, e c'era il divieto di sosta per col cassone della Mondezza, no? Allora c'era il bidone, sono arrivato io con la macchina lì e mi sono messo davanti al bidone, proprio davanti, non di fianco, davanti. Beh, tu lo sai che è passato un vigile e mi ha fatto osservazione di se non mi faceva la multa, e aveva ragione, io ho preso e l'ho spostato, ma guardi, sto uscendo, guardi, quasi non aspetto nemmeno un secondo, vabbè, ho preso, mi sono seduto e me ne sono andato, e ho portato la macchina in falegnameria e poi sono tornato a piedi, ma siccome ero di passaggio, ho fatto bene, adesso che sono di passaggio mi compro la ferramenta che mi occorre per lavorare, e dopodiché invece guardi, anche se dovesse, perché lui mi ha detto, dice, qua passa la macchina dell'ambulanza e non può passare. Beh, non può passare, no, se c'è il bidone della Mondezza qua, c'è la cassone della Mondezza, io sono davanti, sì, vabbè, quella lì non interessa, e aveva ragione, non potevo dire che non aveva ragione, io comunque l'ho preso e l'ho soltanto, ma per dirti, no, era una scusa, poteva anche passarci sopra un attimo, 5 minuti, sarei uscito dal negozio, io ciccia, no? Però mi dovevo stare zitto perché aveva ragione, ero parcheggiato in una posizione dove non avrei dovuto essere, nonostante che in quello stallo c'era il bidone della Mondezza. Vai già. E anche a me è successo, ho parcheggiato il camion in seconda fila, devo fare una consegna a Porto Torres, sento delle sirene, e arriva questo signore, sposti il camion, ci sono i vigili del fuoco, non riescono a passare, e sono sceso giù e dietro c'erano i carabinieri, li hanno fermato, ho chiesto il libretto, tutto quanto, mi hanno fatto perdere 3 ore, e mi hanno detto, ma lei lo sa che ha intasato il traffico, ma le macchine ci passavano tranquillamente, chi è che pensava che in quel momento lì dovesse passare l'ambulanza? Le macchine ci passavano tranquille. I pompieri non ci sono passati, è normale, da più grosso il mezzo, quindi, e mi hanno voluto bene, dai, perché si è messo un altro mezzo, mi stava già facendo fare revisione, non so cosa, perché qua, perché là, poi l'altro ha detto, vabbè, lascialo perdere, sta lavorando, lascialo stare, dai. Non lo faccio più perché lo sa che è un pericolo, ha visto che cosa è successo, ha detto, vabbè, avete ragione, ho sbagliato. Beh certo, se uno si comporta educatamente ha sempre da guadagnare, magari trova qualche prepotente, non lo sai come succede, no? Siccome ci sono dei prepotenti nella vita, allora la discussione degenerava, ma era più che normale, nonostante che tu hai torto, tu non puoi far degenerare una discussione dal momento che sai benissimo che sei in torto. Avanti Natalia. Riprendete voi che c'ho qui dolori, c'ho giù, e so che non lo so neanche io come si so. Non ti hanno ancora chiamato il Natali? Non mi hanno ancora chiamato, no. Oh yeah. Sono a dolori, guarda, no, non te lo so descrivere come sono. Ma adesso ti stanno ricoverando per operarti alle vene, Natali. Ma cosa alle vene? È un tumore, c'ho. Va benigno? Natalia, sai cosa ti conviene fare? Secondo me, almeno un tentativo è quello. Fai finta di sentirti male, chiami l'ambulanza e ti portano subito al pronto soccorso e ti ricoverano. Così secondo me devi fare, perché se aspetti che ti chiamino loro, chissà quando si libera un posto, già lo sai com'è al momento la sanità. Natalia. Sì, hanno il reparto pieno, stanno aspettando di dimettere qualcuno per ricoverare a me. Abbiamo già chiesto, gli ho mandato un'email addirittura al reparto. Io non sto bene, non riesco a affabilizzare, vedi. Mi dispiace questo, però magari come ha detto Giulio, vabbè che può essere che ti faccia un antidolorifico e ti mandano di nuovo a casa, non ha detto che ti ricoveri, no? Quello già è vero, può essere che facciano anche così, oggi bisogna vedere come la pensano loro, però intanto è un tentativo, no? È un tentativo se non altro, almeno quello, tu mi dirai, tocca pagare l'ambulanza, pazienza, non saranno questi 30 euro, 40 euro, boh, non so quanto vogliono l'ambulanza, 50 euro forse, non so, però è un tentativo che può risultare importante, cosa vuoi dire? Natalia, dove ce l'hai questo problema? Dove ce l'hai? Alla vescica ce l'ho, devono farmi l'intervento. Ho capito, sì Natalia. Vabbè, ci sono passato anch'io, ci sono passato, grazie a Dio, già sembra che ho risolto, però ancora sono sempre sotto controllo. Adesso l'ultimo l'altro controllo lo dovrei fare a fine anno, dai, perché sono passato all'anno, ma sono così in canni così, non un giorno, 5 anni sono. Oh yeah, poveri noi, ripeto. Quante difficoltà nella vita tante volte. Avanti già. E quindi l'hai superata la situazione tu Giulio, perché dopo 5 anni dicono che non è più possibile che ti rivegli. No, invece mi hanno detto che i controlli bisogna fare sempre, perché potrebbero anche risolvere. È meglio farlo, anche se uno meglio farlo, per arrivare sempre in tempo, cioè per prevenire praticamente già, perché il discorso è sempre quello, Io sono stato operato nel 2019, ho già, se che fatti conto, siamo al 2004, sono già 5 anni, e ho fatto tutta l'altra fila, tutta una cura, eccetera, eccetera, che devo dire che è stato anche molto pesante, è stata questa cura, soprattutto quando mi facevano le installazioni vescicali, ti posso garantire che non era un gioco, non era assolutamente un gioco, e di quello che ho fatto mi sembra 36 sedute o una cosa del genere, più o meno, senza tutte le altre cose, e citoscopia, e analisi citologico, e tacche, e tutte queste cose qua, e purtroppo adesso l'altra me l'hanno programmata per fine anno, o massimo i primi di gennaio. Infatti l'ultima attacco che ho fatto l'ho pagata contanti, perché non c'era più posto per la sanità, non c'era posto libero, e l'ho dovuto pagare io 270 euro, e me l'hanno fatta di notte alle 9:30 o una cosa del genere, e poi ne sono uscito oltre le 10 dalla clinica, capito Gianni? Purtroppo oggi siamo arrivati a questo. Già, vai già. Ma io ho sentito che c'è una legge che stanno, non devono ancora approvare, però c'è, diciamo che l'hanno diciamo, lanciata, questa legge qua, che praticamente se non c'è posto nella SL, tu puoi andare da un privato con la fattura che ci rilascia e ti fa rimborsare i soldi dalla SL. Beh, questo non te lo so dire la verità, però intanto uno deve avere i soldi per poter fare l'intervento a pagamento, perché in quel caso lì l'intervento è a pagamento, perché a me mi avevano detto se lei lo vuole fare subito l'intervento, io sto parlando di 5 anni fa, è nel 2019 quando è successo a me, dice 4.000 euro e glielo facciamo subito, se no deve aspettare quando lo chiamiamo noi, quando si libera un posto, eccetera eccetera. E tutto sommato in un certo senso sono stato fortunato, perché è passato fatto un paio di mesi più o meno, e poi mi hanno chiamato loro direttamente e sono stato fortunato, sono stato che mi hanno recuperato, diciamo, dai. Però ripeto, dopo quell'intervento ho fatto 5 anni di trafila già, e ancora oggi ci devo sempre periodicamente andare e tornare per controllare. Purtroppo è così, sono problemi degli uomini, soprattutto dopo una certa età, non c'è che dire, c'è quella persona che è fortunata che non ha mai avuto niente fino a quando non arrivano la sua ora, però ci sono quelle persone che invece soffrono abbastanza. Oh yeah, Natali, ci sei ancora? Sì che ci sono. Vabbè, dai, adesso non ti disperare più di tanto, che già ti chiamano, non è magari una cosa urgentissima evidentemente, se no penso che ti avessero chiamato, perché se sei una cosa all'inizio, se un inizio di tumore, no? Diciamo che in linea di massima si dovrebbe guarire sempre. Poi non lo so, non sono un medico e non so cosa dirti più di tanto. Natali, vai e fai girare il tubo dopo, vai. E un inizio deve essere, perché io non ne avevo alle ultime analisi che avevo fatto, capito? Ma poi si fa vedendo di privati già, a privati, unico non me ne voluto fare, perché che l'attacco col contratto si fa solo in ospedale, manco con i soldi me ne hanno voluto fare. Ah, ecco, alle bue. No, quello è vero, l'attacco col contratto te lo fanno solo in ospedale, perché le aziende private, cioè gli ambulatori privati non sono attrezzati per poterlo fare, ce la fanno solo normale, l'attacco normale ti fanno, però col contratto no, non te lo possono fare perché non hanno evidentemente la macchina adatta per poter fare certe visite, certi controlli. Purtroppo così, vabbè. Ma ti sanguina per caso, Natali? Ti sanguina per caso? Non ho capito, che non stavo ascoltando giù. Ho detto, quando vai a urinare ti sanguina per caso? Hai notato del sanguinamento? Sì, ogni tanto. Vabbè, così ero io, Natali. Così ero io, sì, ero io così. Evita qualsiasi cosa di forte. Mangia roba possibilmente sana, roba in bianco magari, perché ti aiuta quello, almeno adesso che sei in queste condizioni. Poi quando sarai guarito, quando sarai ti faranno l'intervento, che sarai guarito, allora la vita cambia. Però durante, non so, però non ti devi disperare, Natale, non ti devi disperare, devi solo aspettare con la santa pazienza e vedrai che ti sistemano. Guarda, se sei all'inizio ti sistemano, non c'è problema. E me l'hanno detto di avere un po' di pazienza, perché ho fatto la cistoscopia, ho fatto il pre-ricovero già, però non si decide neanche a mammi. E beh, il pre-ricovero dura un mese, quindi dopo devi rifare tutto. Cazzo, speriamo ti chiamino subito, perché sennò le analisi che hai fatto non valgono più. In sedia a rotelle mi portano, io non posso camminare e non posso stare più di chi su tanto. E cazzo, diciamo voi c'avete la vostra bagazzo mi fa tenere. Fa ancora rubare il ricovero. Vabbè, mi avevano fatto così, passato. Quindi per farmi operare ho dovuto chiedere gli incuzzi, capito? Te lo dico chiaramente, perché non mi chiamavano più i ladroni da non poter stare come te. Non dormivo la notte, a grida, cazzo, poi quando sei solo è ancora peggio. Quando sei solo è ancora peggio. E a me lo dico. Purtroppo così, purtroppo così. Cazzo, ma che imbriaco, drogato, fare i medicini, sogo. E avere fiducia, soprattutto nei medici, che sono bravi, la verità, in urologia sono bravi, non c'è che dire, però sono situazioni molto, molto pesanti da sopportare, già, purtroppo è così, ma che cosa vuoi fare? A quel punto devi rassegnarti e affidarti. grazie a loro che ti curano, tutto lì. Perché poi dopo l'intervento dovrei fare tutta la tua fila che hanno fatto fare a me. Non ti credere che è finita così, però bene o male si va avanti ugualmente, ma dal momento che ti fanno l'intervento ti tolgono quel problema e poi naturalmente devi curarti nel prosieguo. E così in anni, io non un giorno, 5 anni, dal 2019, proprio in questo periodo, maggio mi sembra o giugno di 5 anni fa, e ancora oggi sono soggetto ai controlli. Purtroppo ci vuole fortuna anche nella vita. Oh, già, vai Gianni. La vita è crudele, dopo che lavori una vita quando vai in pensione si così, ma da lì fumando stai ancora. Sì, cosa mi dica, ti buro una sigaretta, così divento matto. Sono già ubriaco dai farmaci, mi dà gli antidolorifici, le gocce per dormire, mi dà la notte mia moglie, ti mandrò un cazzo, un mazzesimo, qua, meglio la morte. Non mi reggo in piedi, mi lo sa cosa vuol dire non mi reggo in piedi. Ma la sigaretta cerca di lasciarla. Se vuoi un consiglio d'amico, lascia la sigaretta. Mangiati una caramella piuttosto che fumare. Quella è micidiale. Quando c'è questi problemi è meglio che la lasci. È meglio sempre, ma quando c'è questi problemi ancora di più. E a vaga dentro i ripidari non ne puoi dire tu che mancuna. Volere o volare lo lasci. Non educa più, lascia i biglietti, legare di sono cose che ti fanno delle mani e basta. Io lo so che è difficile smettere, io ci sono arrivato da solo, gli altri non mi hanno obbligato. Quando mi obbligavano gli altri non riuscivo a smettere, e poi quando ho deciso io ho smesso e adesso sono più, sono quasi 11 anni adesso che sono senza fumare. Sì, beh, a tutte. Vabbè, venuta gente, vi lascio. Vabbè, a carità, stammi bene, facci sapere qualcosa. Avanti, sono già arrivato meno un quarto, mi pare che adesso lo spengo e vado a portare giù il cane. Dai, 5 minuti ancora e poi spengo. Ciao Natalia, intanto ci sentiamo alle prossime, fammi sapere comunque quando ti ricoverano. Stavo dicendo già, sì, hai ragione, io non mi ero accorto, anch'io devo fare la terapia di solito, sono già in ritardo in pratica, dai, sì, hai fatto bene a parlare anche dell'ora già, così mi hai aperto un po' la mente, che ho guardato l'orologio e ho visto che sono le 8 meno 20, le 8 meno 20, dovrei fare la terapia, anzi, diciamo che l'avrei dovuta già fare già da 10 minuti, un quarto d'ora, ma comunque 60 un quarto d'ora alle volte non è la fine del mondo, però non è che posso esagerare, perché la devo fare ogni 12 ore, sia la mattina presto alle 8, 8 meno un quarto, e la sera alle 8, 8 meno un quarto, lo stesso, più o meno, è così. Poveri lui, cosa vuoi fare già, cosa vuoi che ti dica? Ti posso dire solamente di portare il cane, vai, porta, poverino, anche lui ha ragione di uscire, ci mancherebbe altro. E allora in quel caso lì ti saluto e ti ringrazio per la chiacchierata, già avremo modo di risentirci magari domani se coincide, ok? Ascolto fino a lì, dopodiché ti saluto. Ciao Gianni, grazie per la chiacchierata, a te, a Natalino, alle prossime, finalino per me e poi chiudo. Ciao Giappo, riprendi. Ciao Giulio, quando piacere anche a me, dai. Una carica quando la fai, io oggi mi sono comprato una pizza e me la faccio io. E basta, e così almeno c'è altro. Oggi vi voglio togliere l'ospizio di fare la pizza. Andale, ci sentiamo, dai, Giulio, stammi bene. Ok già, sì, fai bene, guarda, la pizza, alle volte la prendiamo anche noi, di solito la prendiamo la pizzaiolo, qui già ce ne sono diversi, nella zona dove sono io, sì che andiamo, ce la portiamo a casa, intanto è a 300 metri da casa più o meno, se ce n'è una anche più vicina, addirittura ai 300 metri, sì che arriviamo con la pizza calda calda e ce la mangiamo con tanta tranquillità a casa, però ciao Gianni, di nuovo, salutoni, grazie ancora per la chiacchierata. Ciao Natalino, se stai ancora ascoltando. Chiudo, ciao. Ciao, ciao Giulio, ciao. Ciao a tutti gli ascoltori, amici di Buco. Qualcuno già c'è sicuramente in ascolto, ma non ce la frega niente, pazienza. Ciao, ciao Gianni. Ciao.